qualcosa, dai. 25 25 là. Ehi, facciamo finta che ho capito. Sì, vabbè, vedi tu, solo che se uno fa il cambio, almeno poi vabbè, hanno fatto, che ne so, hanno fatto raffronti, hanno fatto anche la Graziole mezz'onda, fatta bene, per una mezz'onda fatta bene, con materiali di alluminio grosso, di generoso spessore, la bobina che è un'opera d'arte, e ruba dal mezzo Santiago al Santiago in più, quindi 6 dB in Santiago, rispetto alla Energy mezz'onda, alias Sirio mezz'onda. Capito, da mezzo Santiago a Santiago in più in trasmissione, e non è poco, non è poco, cioè mezz'onda una, mezz'onda l'altra, però una è fatta in Cina, perché è fatta in Cina la mia 5 ottavi è anche la mezz'onda, e l'altra Grazioli è una mezz'onda ma fatta come Dio comanda. Cioè, se uno non vuole radiali, va di mezz'onda, mi poche parole, oppure sale di aspetta che sto PTT, è un po' duro, oppure sali di classe, cominci, se non vuoi radiali, vai di, aspetta, come si chiama, quella bella, quella J-Pol che c'ha, Claudio, Smartec, J-Pol, è un bestione, di 7 ottavi d'onda, non ha radiali, c'ha quel sistema di adattamento con quella, quello stile, un quarto d'onda parallelo, no? Cortocircuitata e tutto. Costa un po' quella, quella è una sberla come costo, però pare che i materiali siano di prima scelta, eccetera, eccetera. Ce l'hanno già 12 mila Sassari, mi pare, o tre, due almeno, Carlo e Claudio ce l'ha, e sono rimasti entusiasti. Vabbè, stiamo parlando di un altro livello, dai. No, questa cosa della Grazioli mezz'onda non la sapevo. Sapevo della 5 ottavi, alias tipo replica Mantova, ma della mezz'onda no. Se mi dici il modello, magari provo a cercarla su internet, magari provo a spulciare qualcosa, perché non ne sapevo nulla di questa mezz'onda. Sì, adesso ti mando il link. Poi ha fatto anche la, no scusami, ho sbagliato io già. Allora, la J-Pol di Smartec dovrebbe essere 3/4 d'onda, 6 ottavi, 3/4, 6 ottavi è la stessa cosa. Quindi invece la Graziola ha fatto la mezz'onda e poi ha fatto la 7 ottavi d'onda, cioè è uno stile un quarto d'onda con accoppiato uno stile 5 ottavi d'onda, praticamente 10 metri 80 di antenna, capito? Praticamente un quarto d'onda più 5 ottavi, vabbè, un quarto sarebbe 2 quarti, 5, 2, 7, 7 ottavi d'onda, cioè un mostro con un radiatore da 10 metri 30, capito? Di solo radiatore, messo in fase, i due stili, uno sopra l'altro, è uno stile unico, sei una specie di bobina all'altezza di un quarto d'onda che te le mette in fase, così si dice, una roba del genere. Però lì parliamo già di roba impegnativa, da tirantare, pesante anche. Aspetta che ti do il link della mezz'onda, comunque costa già un bel po', è una mezz'onda fatta come Dio comanda, ma la paghi. No, lascia perdi. No, pensavo fosse qualcosa di meno impegnativo, dai. No, io voglio rimanere, cioè non voglio fare uno step, il passo più lungo della gamba, cioè quindi o Venom o Sirio, roba del genere, insomma, tutto qua. Avanti lì, ci sei? Antonello, forse in PMR, Antonello, sento il bip, forse deve fare prove con l'amico di poco fa, come si chiama, Pietro. Lo senti? Parla, Antonio, parla. E parla. Aspetta, un po' di tempo, che stiamo per il corso. Buonasera a tutti comunque. Oh yeah, guardate cosa assisi. Crocro. Sì, già, alla fine se un problema, cioè, se il fattore determinante è la tasca, il portafoglio, allora o vedo un mezz'onda, se non vedo radiali o Sirio mezz'onda, barra Midland mezz'onda, però io a parità di prezzo prenderei la Sirio molto di più, cioè almeno vedi cos'è la bobina. Nell'altra uno l'ha descritta così, un tubicino di cartone con una volta un filettino di rame ridicolo, cioè lì non è a vista, è notato, nella Venom non si vede la bobina nemmeno, non sa cosa c'è dentro, se c'è qualcosa dentro. Ho capito, vabbè, poi chiaramente il prezzo giustifica la qualità, quindi c'è poco da fare. Quindi quella è una evidenza assoluta, dai. No, cioè, al giorno d'oggi rimango i giaffi di Dazine a gratis, quindi figurati tu. Vabbè, ti ripeto, sono un po' così, un po' indeciso se metterlo o meno e se ne vale la pena. Ah, piuttosto, stavo guardando sempre lì da Amel Radio Shop, ho visto che c'è l'Erelo 1000 e poi c'è anche quello, dovrebbe essere il 1000 però nautico, quello bianco. Hai qualche informazione in più rispetto a quello che io, e se hai qualche indicazione cosa mi dici? Il 58 non saprei dire, io non l'ho più usato, da come sono rientrato ho preso direttamente il 213, in teoria la versione 1000 dovrebbe essere migliore, più Antone, vieni un attimo, parla qua però. Sono qua, dimmi tutto. Ehi, fagli il quesito già. Allora, ho visto che c'è l'RC58, versione 1000, quello nero, e poi lo fanno sempre 1000 con il rivestimento bianco, praticamente nautico. Volevo sapere i vostri pareri, dai. Questo è il problema, il discorso è quello. In pratica per i cavi è questione solamente di potenza, cioè uno gli puoi dare 100 watt, l'altro in pratica 1000. Il discorso è come fare il discorso la camille più che altro. Per il 58 perlomeno, quindi vedi tu cosa fare. Secondo me prenditi quelle la cabille, a quanto sembra ci sono 50 metri da fusaro, prendi quelle e sei a posto. È sempre il 58, tipo il 58, una cosa del genere, però resiste di più. Hai capito? No, vabbè, intanto no, io c'ho solo le radio, non c'ho altro attaccato, quindi non è che devo collegare tostapane o fornellini, c'ho solo le radio e basta. E niente, no, volevo sapere più o meno, insomma, a graninine se ha quello 1000, quello nero e quello nautico, che credo che sia sempre 1000 perché l'ho visto su Radio Shop, ne valga la pena, dai, costicchia un po' di più, però mi sembra un po' più serio del 58 quello base. Beh, certo, più volte regge meglio è, il discorso è questo. Allora, sì, se sono tutte 2000 alla fine è questione di estetica. Per esempio, nell'84 la sorte ha voluto che da Adriano in via Lomberto avessero al momento solo quello bianco, e noi avevamo messo quello bianco nell'ottano 84, non era 1000 nemmeno, era RG58 proprio normale, però era molto discreto perché sembrava un cavo antenna, capito, dava meno nell'occhio, non era nero, la facciata era chiara e quindi ci stava anche bene in facciata. poi non era in facciata ma era dietro, dalla parte dietro del palazzo. Via. Sì, più che altro, cioè, anche a livello estetico, dai, per non avere il cioccoso pendola pendola in facciata, questa cosa nera. Il bianco già è un attimino un po' più discreto. Giusto per quello, mi, non per altro, cioè. Siccome visto che c'era questa opzione, stavo pensando di prendere quello bianco, così faccio direttamente la calata insieme a quei pochi metri di cavo d'antenna, dai, lo buon compari, e niente, è più discreto, dai, non è un pugno nell'occhio. Tu quanti metri ne hai? Quanti metri ne devi mettere? Guarda, fai conto che cioè faccio girare il cavo dell'antenna lungo il perimetro della camera per non avere insomma il filo in mezzo ai piedi, e quindi tenendomi abbondante facciamo 3, 6, 9, 12, 15, dai, una quindicina di metri, fai 20 scarsi, dai, neanche, ma abbondante. Sì, vabbè, pochini, se no potevi, se non ti interessa il fattore estetico, andare direttamente di H155, c'è la schermatura doppia, c'è la, a parte la calza, quella, il fogliettino di alluminio, e dovrebbe perdere come il 213, cioè perdi meno, capito, a parità di metraggio, forse anche qualche watt in più lo regge, però qua lo dico, qua lo nego, però il colore è grigio, un grigio medio scuro, tipo grigio Mercedes, dai. Costa anche un po', però più che altro si usa in VHF, capito, però in 27, per esempio, se uno deve mettere il 213 e lo ritiene troppo grosso, non lo vuole mettere, si mette il 155, bene o male, grosso modo come perdita siamo lì, il 58 perde molto di più, come anche il 27, se devi mettere molti metri conviene il 155, bello in originale però, E dove è il telefono? Lo sento ronzare, sotto il sedere ce l'ho, cacchio. Ehi, bene bene, avanti pompo. Sì, dimmi tutto, sono qua. No, vabbè, che è rimasto posteggiato, dai. Ti ho mandato il link, Gianni. Allora, quando vedi il prezzo di quella mezz'onda te ne vale un raio, però è una signora mezz'onda, non è una Ringo, capiamoci. Oh, no, no, già, riascoltati mentalmente le parole che ti ho detto prima, non devo fare nessun volo pindarico, quindi non me ne affutti nulla, né? Voglio fare un passo alla volta, niente di eccezionale. Quindi microfono, radio e antenna, boh, finito. Eia, va bene. Comunque, interessante le caratteristiche, se vuoi vederle, materiali, tutto. Però se le fanno ben pagare, una mezz'onda quel prezzo non l'avevo mai vista. Così come non avevo mai visto una mezz'onda anche di quella fattura anche. Vabbè. Antonello, riprendi, oggi sei di poche parole. Eia, infatti. Adesso come sto? Sto bene, sì. Appena appena saturo, forse la vicinanza però. Ah, ok, vabbè. 100 watt sono. E qua sono 2 watt. Sarebbero 3 watt. Meno, allora, meno di 3 mezzo modulati, fa che siano 2 mezzo modulati utili. 2 watt, sto usando 2 watt e mezzo in antenna, presumo. Sì, quello sì. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Sono lì. 5 watt di potenza. Eia, ma per parlare con noi 185 watt, così è. Ma che c'entra quello? Non c'entra niente, la verità. Solo per provare, più che altro, capito? Vedete, funziona, quindi se bene va di bene, a un certo punto. Ho dato un'occhiata ai prezzi di quei trasmettitori FM, stanno alzando un bei prezzi, prima costava 49-50 euro, adesso 65-69, stanno alzando molto molto i prezzi, per carità, non fa comprare niente. Vabbè, comunque sia, me lo prendo, te lo sto dicendo. Mi serve quell'aggeggio, lo sai, per fare quella storia, quindi a un certo punto, lo prendo e sono tranquilla, a un certo punto, poi vabbè, pazienza. Ehi Antonio, vediamo un po' che ore sono, che poi io ti ho sentito dall'altra stanza, c'è la TV accesa, c'era il ricevitore con lo squelch ancora acceso, ho sentito tu che premevi, ho detto ma forse non riesce, sentivo che cercavi di comunicare con qualcuno, ma non capivo con chi stavi parlando prima, perciò ti avevo chiesto, ed era Pietro, dai, comunque arrivare arriva, dai. È stato con Pietro, ci sei arrivato, comunque sia. Io voglio fare quella, cioè il sogno mio è quello, già lo sai anche tu, quindi a un certo punto voglio installarmi con la Gigio, non mi interessa niente, se non è su 7 sarà su 6, quello che è, però lo voglio installare, è per noi, è il mio sogno la verità. Poi chi non è d'accordo se la piglia in culo e passa buone feste. Hai capito? Se non c'è il tono squelch, un cazzo c'è. Se lo usa, il discorso è quello. Ma stanno facendo i fuochi artificiali qua, a una certa distanza. Mi ha dato. Oppure Putin. Oh, boh, questo non lo so, ma comunque sia, sarà un casino, la verità. Siccome Gianni non riprende, Gianni deve fare un colpo per il prezzo di quell'antenna. No, vabbè, ero distratto. È diventato altre cose. Dai ragazzoli, io vi abbandono oggi, dai, ci aggiorniamo, ci sentiamo in frequenza prossimamente, domani, non tanto capiteggia, dai. Dai, buona serata, sì Marco, ho visto che è arrivato il link, buona serata, gli do uno sguardo, e niente, dai, qui su Telegram ho un sacco di roba da guardare, quindi guardo anche il tuo link, dai, c'è tanta di quella roba allucinante, e niente, dai, mi sbobino questo malloppone, e niente, dai, salutoni a tutti, buona serata, grazie per la chiacchierata, e ci aggiorniamo, ciao Alessio, ciao Marco e agli ascoltori del 10 e tutti quelli in lettere, babbo micio micio, mettetevi le mutande di ferro. A me poi la vodka non piace, quindi ciao, già buonanotte, ci sentiamo Antonello, vai. Eia, ciao, ci sentiamo alle prossime, dammi bene, molto buon tutto, vado, non ti posso augurare. Dopodiché in caso di attacco, sta tranquillo, ci sono un sacco di persone in Sardegna che sono meglio cazzo dell'Ucraina, te lo dico io, che se ne fanno 4 o 5 cazzo di quei russi, questo, poco ma sicuro. Te lo dico io. Si repentiranno se dovessero attaccare a noi. Ma se ti ripetiamo veramente forte, te lo dico io. Spero che non capiterà mai, ma comunque nel caso lo sanno loro, anzi anche in Sicilia addirittura, perché con la mafia siciliana sono molti, sono veramente molti, te lo dico io. Non vanno da nessuna parte, non vanno. Io adesso stacco. Questo film è destino che non lo debba guardare. Vabbè, Antone, dai, sentiamo in orari più recenti, che oggi sono anche bruciore di stomaco. Quello è tutte le porcherie che mangio. Dai, sentiamo in migliore occasione, Antone. Buonanotte, buon tutto. Ok, a te tanto, dai, ci sentiamo domani. Non c'è problema.